Il terzo anello, ad alta voce. La montagna incantata di Thomas Mann. C'erano pochi minuti di strada per scendere dal Berghof alla casetta dalla porta incorniciata di tralci. Entrarono, lasciarono a destra l'ingresso della drogheria e salirono la scala bruna e stretta che li portò davanti a un uscio, accanto al cui campanello non c'era che la targa col nome di Lukacek, il sarto per signora. I cugini rimasero sorpresi, persino abbagliati dal lusso dello studio con due finestre che li aveva accolti. La povertà della casetta, della scala, del misero corridoio non faceva supporre neanche lontanamente una cosa simile, e per contrasto conferiva all'eleganza dell'arredamento un che di fiabesco, che per se stesso forse non aveva né avrebbe avuto agli occhi di Hans Castorp e Joachim Zimsen. Ad ogni modo era fine, anzi splendido, e tale che nonostante la scrivania e le librerie non rispondeva a rigore al tipo della stanza da scapolo. C'era troppa seta, seta color vino, color porpora. I panneggi che nascondevano le brutte porte erano di seta, e così le balze alle finestre e le fodere dei mobili da salotto, raggruppati su uno dei lati brevi, di fronte alla seconda porta, contro un arazzo che copriva quasi tutta la parete. Erano seggiole barocche, con cuscinetti sui braccioli, intorno a un tavolino rotondo guarnito di metallo, dietro al quale stava un divano del medesimo stile, con cuscini di felpa. Le librerie occupavano le pareti a fianco delle due porte, ma nell'angolo a sinistra del gruppo di sedie si vedeva un'opera d'arte, una grande scultura di legno dipinto, sopra un piedistallo rivestito di rosso. Qualcosa di pauroso, una pietà, ingenua e impressionante, fino ad essere grottesca. La Madonna con la cuffia, le sopracciglia contratte, la bocca torta e aperta in un gemito, in grembo la salma del Redentore. Figura primitiva, di proporzioni sbagliate, con i caratteri anatomici messi crudamente in rilievo, ma da un inesperto. La testa penzolante, irta di spine, la faccia e le membra macchiate di rividi sangue. Grossi grappoli di sangue coagulato sotto la ferita del costato e i segni dei chiodi sulle mani e sui piedi. «Eccoci qua, per un colloquio!» esclamò Castorp, i cui occhi si fissarono sul religioso orrore nell'angolo più che sull'inquilino della stanza sorprendente, il quale riconobbe che i cugini avevano mantenuto la parola. Con gesti cordiali della piccola destra li invitò a occupare le sedie di seta, ma Castorp andò difilato e affascinato verso il gruppo ligneo e le mani puntate sui fianchi si fermò a guardare, con la testa piegata su una spalla. «Che cos'ha qui?» chiese sottovoce. «È paurosamente bello! Si è mai visto un dolore simile? Lavoro antico, vero?» «Secolo XIV», rispose Nafta. «Probabilmente di scuola renana. Ma non ci vogliamo sedere?» Lei vede la pietà anche dal divano. Ed ecco che arriva la nostra modesta merenda. Un servitorello recava il tè e un bel cestino guarnito d'argento con un dolce a piramide tagliato a fette. Ma dietro a lui, dalla porta aperta, chi entrava con passo leggero e con un fine sorriso esclamando «Perbacco! Accidenti!» Era Settembrini, che abitava al piano di sopra e veniva per far compagnia ai signori. La conversazione si aggirò ancora intorno alla pietà, perché Castorp continuava a guardarla e a parlarne, rivolgendosi a Settembrini e cercando, per così dire, di metterlo in contatto critico con l'opera d'arte, mentre la ripugnanza dell'umanista contro quell'ornamento della stanza appariva ben chiara dalla faccia con la quale si era voltato a guardarlo. Si era infatti seduto volgendo le spalle a quell'angolo. Thank you. Settembrini aveva un suo modo potente di fare domande. Seduto e col busto eretto, faceva piombare dall'alto le sue oneste parole sul piccolo Nafta, alzando infine la voce talmente da far intendere quanto fosse sicuro che la risposta dell'avversario non poteva essere altro che un umiliato silenzio. Nafta ribatteva con sgradevole calma. «Caro amico, una conoscenza pura non esiste. La legittimità della dottrina della scienza ecclesiastica, che possiamo riassumere con le parole di Agostino, credo per conoscere, è assolutamente incontestabile. L'organo della conoscenza è la fede. L'intelletto è secondario. La sua scienza, senza presupposti, è un mito. Lo stesso concetto di dimostrazione contiene sul piano psicologico un cospicuo elemento volontaristico. I grandi scolastici dei secoli XII e XIII avevano l'unanime convinzione che non può essere vero in filosofia ciò che è falso per la teologia. Lasciamo da parte, se vuole, la teologia, ma un umanesimo che non riconosce come, nella scienza naturale, non possa essere vero ciò che è falso per la filosofia, non è un umanesimo. Il ragionamento del Santo Uffizio contro Galileo stabilì che le sue tesi erano filosoficamente assurde. Non esiste ragionamento più stringente. Gli argomenti del nostro povero, grande Galilei si sono dimostrati più validi. Andiamo, professore, parliamo seriamente. Risponda davanti a questi giovani così attenti alla mia domanda. Crede lei in una verità oggettiva, scientifica, la cui conquista è legge suprema e le cui vittorie sull'autorità costituiscono la gloriosa storia dello spirito umano? Castorpe e Joachim volsero la testa da Settembrini a Nafta, il primo più rapidamente del secondo. Nafta rispose: «Vero è ciò che giova all'uomo». «Lei predica un pragmatismo», replicò Settembrini, «che basta trasferire sul piano politico per vedere quanto sia nefasto. Buono, vero e giusto è ciò che giova allo Stato. La sua salvezza, la sua dignità, la sua potenza sono criterio della moralità. Bene, ciò apre le porte ad ogni delitto. E l'umana verità, la giustizia individuale, la democrazia, chissà dove vanno a finire». «Vorrei proporre un po' di logica», disse Nafta. «O hanno ragione Tolomeo e la scolastica, e il mondo è finito nel tempo e nello spazio. In questo caso la divinità è trascendente, l'antitesi fra Dio e il mondo rimane, e anche l'uomo è un essere dualistico. Il problema dell'anima consiste nel contrasto fra il sensibile e il soprasensibile, e gli aspetti sociali sono a distanza, di second'ordine. Soltanto questo individualismo è per me accettabile e conseguente. Oppure i suoi astronomi rinascimentali hanno trovato il vero e il cosmo è infinito. In questo caso non c'è mondo soprasensibile, non c'è dualismo. L'aldilà è compreso nell'aldiquà. L'antitesi fra Dio e natura cade. E siccome anche la personalità umana non è più un campo di battaglia fra i due principi avversi, bensì armoniosa, bensì unitaria, il conflitto interiore dell'uomo si limita a quello fra gli interessi del singolo e della totalità. E il fine dello Stato diventa, come è paganamente giusto, la legge morale, o l'uno o l'altro. «Protesto!» esclamò Settembrini, tendendo il braccio con la tazzina del tè contro il padrone di casa. «Protesto contro l'imputazione che lo Stato moderno sia la diabolica schiavitù dell'individuo. Protesto per la terza volta contro la vessatoria alternativa di prussianesimo e reazione gotica, davanti alla quale ci vuole porre. La democrazia non è che un individualistico correttivo di ogni assolutismo statale. Verità e giustizia sono preziosi gioielli della moralità individuale e in caso di conflitto con l'interesse dello Stato possono assumere persino l'aspetto di potenze antistatali, mentre in effetti mirano al bene superiore e diciamo pure ultraterreno dello Stato. Il Rinascimento, origine dell'idolatria dello Stato. Quale pseudologica! Le conquiste, voglio dire frutti di lotta e battaglie del Rinascimento e dell'Illuminismo, si chiamano personalità, diritto dell'uomo, libertà! Gli ascoltatori respirarono, poiché durante la grande replica di Settembrini avevano trattenuto il fiato. Anzi, Castorp non poté fare a meno di battere, sia pure con ritegno, un colpo sull'orlo del tavolino. «Magnifico!» disse fra i denti. E anche Joachim si mostrò molto soddisfatto, nonostante l'attacco al prussianesimo. Ma poi entrambi si rivolsero all'interlocutore respinto. Castorp, con tanto zelo da appoggiare il gomito sul tavolino e il mento sulla mano, pressappoco come quando disegnavano il porcellino, per guardare Nafta da presso. Nafta se ne stava quieto e serio, con le scarne mani in grembo. Poi disse: «Avevo cercato di mettere un po' di logica nella nostra conversazione. E lei mi risponde con esaltazioni. I suoi frutti di lotte e battaglie mi lasciano freddo, poiché l'età battagliera eroica dei suoi ideali è tramontata da un pezzo. Questi ideali sono morti, o sono oggi almeno ridotti all'ultimo respiro, e i piedi di coloro che faranno loro la festa sono già sulla soglia. Lei, se non erro, pretende di essere rivoluzionario, ma se crede che il risultato di future rivoluzioni sarà la libertà, si inganna. In 500 anni il principio della libertà si è compiuto ed è superato. Una siffatta pedagogia potrà ancora riportare vittorie retoriche del momento, ma la sua arretratezza è, per chi se ne intende, al di là di ogni dubbio. Tutte le società veramente educatrici hanno sempre saputo che cosa occorra realmente in qualsiasi pedagogia. Il comando assoluto, il ferreo impegno, la disciplina, il sacrificio, la negazione dell'io, la violazione della personalità. Credere infine che la gioventù si compiaccia della libertà significa fraintenderla freddamente. Il suo più vivo piacere è l'obbedienza. Joachim si drizzò. Castor perrossì. Settembrini agitato si torceva i bei baffi. No, continuò Nafta, non la liberazione. Nello sviluppo dell'io sono il segreto e il comandamento dell'ora. Essa ha bisogno, essa esige, essa saprà procurarsi, sapete che cosa? Il terrore! Nafta pronunciò quest'ultima parola senza muoversi, con voce più bassa del resto. Soltanto gli occhiali mandarono un breve lampo. Gli ascoltatori tutti e tre ebbero un sussulto, anche Settembrini, il quale però si riebbe subito e sorrise. Ed è lecito chiedere chi o che cosa? Lei vede che faccio soltanto una domanda, non so nemmeno io come. Chi o che cosa, secondo lei, sarebbe l'esponente di codesto, non vorrei ripetere la parola, di codesto terrore? Nafta stava quieto, attento e lampeggiante. So come la pensa intorno allo Stato nazionale. Soprattutto stanno l'amor di patria e l'illimitata brama di gloria. Questo è Virgilio. Lei lo corregge con un po' di individualismo liberale. E ha la democrazia. Ma il suo fondamentale rapporto con lo Stato ne rimane intatto. Che la sua anima sia il denaro, a lei evidentemente non importa, o lo vuole contestare. L'antichità era capitalista perché credeva nello Stato. Il Medioevo cristiano ha scorto con chiarezza l'immanente capitalismo dello Stato laico. Il denaro sarà l'imperatore. Ecco una profezia del secolo XI. Vuol negare che ciò si sia avverato alla lettera e in tal modo l'indiavolamento della vita sia diventato un fatto compiuto. Caro amico, lei ha la parola. Sono impaziente di conoscere il grande ignoto, l'esponente del terrore. Curiosità temeraria nell'avvocato di una classe sociale che è l'esponente di quella libertà che ha portato il mondo alla rovina. All'occorrenza posso rinunciare alla sua replica, perché conosco l'ideologia politica della borghesia. La sua meta è l'impero democratico, l'autopotenziamento dello Stato nazionale verso l'universale, lo Stato universale. L'imperatore di questo impero lo conosciamo. Ma se vogliamo che venga il regno, il dualismo di bene e male, di al di là e al di qua, di spirito e potere, deve annullarsi temporaneamente in un principio che unisca ascesi e dominio. Ecco quella che io chiamo la necessità del terrore. L'esponente, l'esponente, disse Settembrini. Lei me lo chiede. Possibile che al suo manchesterismo sia sfuggita l'esistenza di una teoria sociale che rappresenta l'umano superamento dell'economia con principi e mete identici a quelli del cristiano stato di Dio? I padri della Chiesa hanno chiamato dannose le parole mio e tuo e dichiarato che la proprietà privata è un'usurpazione, è un furto. Hanno condannato il possesso di beni, perché secondo il divino diritto naturale la terra è comune a tutti gli uomini e perciò produce i suoi frutti per il comune uso di tutti. Insegnarono che soltanto l'avidità, conseguenza del peccato originale, propugna il diritto al possesso e ha creato la proprietà particolare. Furono abbastanza umani, antiscambisti da considerare in genere l'attività economica un pericolo per la salvezza dell'anima, cioè per lo spirito di umanità. Odiavano il denaro e gli affari e chiamarono la ricchezza capitalistica il combustibile del fuoco infernale. Disprezzarono cordialmente la fondamentale legge economica per cui il prezzo risulta dal rapporto fra offerta e domanda e condannarono l'utilizzazione della congiuntura come cinico sfruttamento delle strettezze del prossimo. Secondo loro esiste uno sfruttamento ancora più delittuoso, quello del tempo, la mala consuetudine di farsi pagare per il solo scorrere del tempo un premio, cioè l'interesse, e di abusare in tal modo del tempo, istituzione universale e divina, a vantaggio dell'uno e a danno dell'altro. Benissimo, esclamò Castorp, servendosi nell'entusiasmo dell'espressione usata da Settembrini per approvare. Il tempo, istituzione universale e divina, molto importante. Certo, confermò Nafta. Quegli spiriti umani ebbero a schifo l'idea di un automatico aumento del denaro. Compresero tutte le speculazioni e il gioco degli interessi nel concetto di usura e dichiararono che ogni ricco è un ladro o l'erede di un ladro. Andarono anche più in là. Considerarono, come Tommaso d'Aquino, attività vergognosa qualsiasi commercio. Il puro affare commerciale, compra o vendita con riscossione di un utile ma senza lavorazione, senza miglioramento del bene economico. Non erano disposti a stimare granché il lavoro per se stesso, dato che non è un soggetto etico né religioso, ma si effettua al servizio della vita e dell'economia. Vollero che la condizione del vantaggio economico e misura della rispettabilità fosse l'attività produttiva. Onorevoli erano per loro l'agricoltore, l'operaio, non il commerciante, non l'industriale. Volevano infatti che la produzione si regolasse sul bisogno e detestavano la produzione in massa. Ebbene, tutte queste massime e misure economiche risorgono oggi, dopo secoli di sepoltura, nel moderno movimento del comunismo. La concordanza è perfetta fin dall'esigenza di dominio che il lavoro internazionale proclama contro il mondo internazionale del commercio e della speculazione. Il proletariato mondiale che oggi contrappone l'umanità e i criteri dello Stato di Dio alla corruzione borghese capitalistica. La dittatura del proletariato, questo postulato politico-economico del nostro tempo, non significa il dominio per se stesso e per l'eternità, bensì una temporanea sospensione dell'antitesi di spirito e potere nel segno della croce. Significa il superamento del mondo mediante il dominio mondiale. Significa la transizione, la trascendenza. Significa il regno. Il proletariato ha ripreso l'opera di Gregorio con la stessa passione religiosa e come lui non potrà non macchiarsi le mani di sangue. Compito suo è il terrore per la salvezza del mondo e per la riconquista della redenzione finale